E il ministro della guerra è il tuo cuore, la tua bocca è un dittatore, le tue dita sono in guerra. Sono come una musica marziale, un esercito che marcia sulle mie difese messe male. Ed il tempo che passa è il peggiore dei tuoi avversari, ma anche i mostri muoiono quando muore la paura che ti fanno. Per il tempo che passa c'è una cura fatta di passioni, i desideri non muoiono, sono fatti di metallo morbido. Chissà dal tuo cuore, quando smetti di giocare, l'importante è ciò che non appare. Così nel giorno del tuo amore, la mia breve volontà mi vuole immersa dentro al tuo cuore. Per il tempo che passa c'è una cura fatta di passioni, i desideri non muoiono, sono fatti di metallo morbido. Materiale il tuo cuore è una forma di coraggio per i nostri desideri da salvare.